cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma chi è? Chiedo scusa, ho sbagliato. Ma chi siete? Non ho capito. Io sono io. E pure sono io. Tu parli con questa voce così bassa, così cupa. Chiedo scusa. Che fai, vuoi salire? No, no, io normalmente per sport suono i citofoni e rimango sotto il palazzo. E senti che voglio salire. Mi può aprire? Sono fuori. Com'è andata? No, no, no, no. Ma si può dire che adesso è un giocatore del Milan? No, non si può dire. Ancora no, bisognerà aspettare. Ah, adesso un po' di calma. Ma ora tornerà a Milano? È venuto lei qui. Cioè, non è un po' inusuale? No, no, perché? No, assolutamente. No, no, dai, davvero. No, no, domani mattina decide. Io adesso prendo un treno e torno a Milano. Decide lei, decide lui. Decide lui, lui sa tutto adesso e ci penso una notte, domani decide. Ma non sono né ottimista né pessimista, è il ragazzo che deve, ci penso una notte, ma mi sembra giusto. No, no, no, non c'è nessuna percentuale, il ragazzo decide domani mattina, non so come dirlo, non è che sul tragitto del treno sia cambiato qualcosa. Però se lei si è mosso vuol dire che questa ci tiene molto a questa operazione, no? Mi sembra. Ah, beh, ci teniamo sì, ma non voglio dire, ripeto. L'accordo con la Roma è stato raggiunto e adesso manca la firma del giocatore. Giorgio De Luca, il nostro autore, Fabio Cantadoni in regia, Daniele Bonamici in redazione, io ho proposto anche Benigni. Sono Gloria, lasciato le chiavi lì sul tavolo accanto alla frutta. No, però davvero strano, davvero inusuale. E oggi il capitolo finale, la lieta conclusione. Grazie Roma, ero un ragazzino, mi hai fatto diventare grande. E qui ho scoperto che l'amore con la A maiuscola esiste davvero. E ora a Milanello per una nuova sfida convinto e determinato. È già iniziato il countdown verso San Siro. Mattia Destro ha detto sì a Galliani, su cui si è scatenato ovviamente dopo la scampanellata di ieri. Insomma, i fautori di Inter e dei fotomontaggi si sono scatenati tra aspirapolveri e cose varie. Carlo Laudisa, super esperto della Gazzetta. Ciao Carlo. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Dunque Destro ha detto sì, sai quali numeri? Il suo contratto, sì. O quello con la Roma? Quello con la Roma è un prestito di 700.000 euro con diritto, solo diritto di riscatto, per 16 milioni di pagamento triennale. Sì. Nel colloquio di ieri si è parlato molto di aspetti, diciamo, anche psicologici, perché il tema finanziario non è stato toccato. Non ci saranno incentivi o step che permettano poi l'obbligo. Sì. Il Milan ieri ha spiegato bene a Mattia Destro che l'operazione è congegnata in maniera tale da presupporre un riscatto, e quindi l'idea del Milan è quella di tramutare poi l'operazione a titolo definitivo, però non si è potuto sbilanciare in ulteriori facilitazioni, diciamo. Sì. Però alla fine evidentemente Mattia Destro questa notte ha valutato, credo da quello che risulta anche con il conforto familiare, oltre che dei suoi agenti, l'esigenza poi di giocarsi questa chance nel Milan al momento opportuno, per cui si è assunto il rischio evidentemente di un momento in cui arriva con un Milan certamente, certo, passa dalla lotta dalla piena lotta a scudetto alla lotta per nulla, appunto, e evidentemente però ha accettato questa sfida. Credo che alla fine questa notte di ripensamento, spero per lui, per il Milan, che sia un segno che sceglie con grande volontà, con grande determinazione questa nuova pagina della sua carriera. Sì, a parte che guadagnerà qualcosa di più, no? Mi pare passi da 1.5 a 2.5 a stagione, ma secondo ma te... letteralmente in questo momento mantiene il contratto che aveva la Roma. Che aveva la Roma. Credi che abbia, sì, che abbia inserito garanzie tecniche, o che quantomeno non inserite nel contratto, ma che abbia chiesto garanzie precise dal punto di vista tecnico, cioè vengo se gioco? No. No, no, questo no, ma credo che è una notizia anche di oggi, questa scelta l'aveva già fatta Silvio Berlusconi nel momento, sì, in cui ha vinto, diciamo così, la battaglia con Inzaghi. Io tradurrei che la conferma di Inzaghi è legata anche a questo suo cedimento, perché d'ora in avanti il Milan giocherà col 4-4-2, vale a dire con un centravanti, quindi Mattia Destro, e con Menezza al suo fianco, se Menezza sarà titolare. Uh-huh. Quindi c'è una rivoluzione tattica, no? E quindi evidentemente il proprietario del Milan ha finanziato l'acquisto importante, perché comunque Mattia Destro, certo, è sicuramente un, certo, centravanti di prospettiva, fa parte di un progetto, e quindi al contrario di Torres andrà tutelato. Sì, sì, certamente. Ma questo non è un'aspettativa del giocatore, questo è un dovere che evidentemente la società ritiene di dover perseguire. Mm. Posto che Torres anche ieri sera l'ha messa dopo 40 secondi, una partita poi persa dall'Atletico Madrid con il Barcellona. Carlo, ti chiedo un attimo di pazienza al traffico. E poi ieri hai tenuto a rapporto lungamente il principe della piazza del mercato, e cioè Mino Raiola. Vorrei parlarne con te subito dopo il traffico. Mattia Destro per me è un giocatore della Roma e sarà un giocatore della Roma. Non abbiamo motivi per privarci di un giocatore come Destro. Mattia è un attaccante nostro, mi sono già espresso su Mattia. Mattia è importantissimo, farà dei gol con noi e io conto su di lui tutta la seconda parte della stagione. Non cambio discorso. Convocati. Ma se rimanesse ancora un altro anno invece? Anche questo è possibile. Quindi non lo escludiamo? No, abbiamo firmato un contratto di 5 anni, quindi questo è il primo del rinnovo, quindi potrebbe anche rimanere. La Juve deve valutare le sue cose, noi dobbiamo valutare le nostre, poi vedremo, sia il momento. L'anno scorso non era il momento, quest'inverno abbiamo già detto di no, forse ci sarà anche lì il prossimo mercato per dire di no, non lo so. Questo era Mino Raiola, ieri a lungo colloquio con Carlo Laudisa, oggi nostro ospite. 800 24 00 24, il numero verde, ci sono già molti ascoltatori. Non ci siamo dimenticati della Juventus che in Coppa Italia ieri sera a Parma al 90esimo, Morata forse con l'aiutino Llorente in fuorigioco, probabile su prima dell'assist a Morata. Si conferma la regola aurea secondo cui le grandi squadre in questo giro di Coppa Italia qualcosa hanno ricevuto. Non il Milan, ma perché il Milan è una grande squadra, non lo è più. Carlo Laudisa, allora, hai parlato con Mino Raiola di Pogba. Raiola ha anche detto, se Raiola offrisse 80 e City 110, lui volesse Reale, il mio lavoro è mandarlo dove vuole. Ci crediamo o fino a un certo punto? O resterà davvero alla Juve? Qual è la tua sensazione? C'è un altro aspetto che tra le tantissime frasi di Mino Raiola mi ha colpito, e che lui ha ribadito questo concetto. Paul sceglierà la squadra che crede di più in lui. Sì. Ed è per questo che vincola anche il fatto alla possibilità che possa rimanere ancora un altro anno alla Juve. Cioè, la sua filosofia è: se la prossima estate si troverà un partner che effettivamente gli permetta di migliorare, o meglio di andare a conseguire il pallone d'oro, perché poi quello è l'obiettivo calcistico. L'aspetto economico apparirà strano, ma nei ragionamenti di Raiola è secondario, o solo in apparenza. Le battute, io credo che la carriera di Raiola, che ha meritato anche un forum in Gazzetta, perché è importante anche sottolineare questo, perché lo abbiamo ospitato, mi ha fatto piacere, perché in realtà poi l'ho ospitata io l'intervista insieme a Gino Di Feo, ma è stata un'autentica raffica di domande di tutti i giornalisti della Gazzetta, quindi è stato anche un evento a mio modo di vedere. Certo. Peccato che non sia stato registrato, perché alla fine lui stesso è rimasto contento, nel senso che è emerso, sono emerse tante sfaccettature. Non a caso domani la Gazzetta pubblicherà una seconda puntata, perché poi il tema di Pogba è il più interessante, ma ci sono stati una serie di aneddoti gustosissimi che vi invito a leggere non solo oggi ma domani sulla Gazzetta. Per cui è una parentesi di una vicenda calcistica, credo, molto interessante, perché Raiola è un fenomeno, nel senso che partendo da Haarlem, con una situazione evidentemente periferica, con una condizione periferica, è riuscito con la sua intelligenza, certo, con la sua astuzia, a conquistarsi la fiducia dei migliori, dei maggiori esponenti del mondo del calcio, perché lui ha cominciato con Zeman, per ricordarlo, a chi non lo sapesse, portando Brian Foggia, poi ha catturato le simpatie della famiglia Pozzo, poi era nemico di Moggi, è diventato un suo partner, diciamo, negli affari commerciali, poi, sì, ovviamente in senso positivo, ovviamente, poi, certo, a ciascuno le sue deduzioni. Poi con Gagliani nel Milan, insomma, chi sarà? Adesso poi è tornato la Juve con Pogba, con Andrea Agnelli, con Marotta e tutto il resto. È evidente che alla fine chi lavora con lui ha successo, qualche motivo ci sarà. No, ma poi è facile fare i detrattori e dire a questo pizzaiolo, però è uno che ci sa fare, è uno che ha fatto fare grandi carriere e grandi guadagni ai suoi giocatori, forse anche troppi guadagni. C'è l'altro caso, poi, quello di Mario Balotelli. Tutti dicono la cosa incredibile è che questo, nonostante ripetuti fallimenti, si è andato a guadagnare con Mino Raiola sempre di più. Raiola ha parlato con te anche di Balotelli, dicendo una cosa molto interessante, che è questa: Balotelli non sta andando bene quest'anno. Ma questo lo giudichi tu da giornalista che vuole vedere quello che fa sul campo? Forse quello che gli sta succedendo era una cosa dovuta per la sua crescita, ha avuto questi infortuni che ovviamente gli ha costato per i momenti il posto, però per me sta andando molto bene, la sua vita privata è molto calma, che è già una grande cosa per lui. Sappiamo quello che devo fare, lui sa quello che devo fare, lui è un grande campione e escerà fuori. È al Liverpool che deve dare il suo... Al Liverpool rimanerà, fino a che non va via da grande campione. Quindi ti sei pentito di averlo riportato in Italia? Molto. Colpa mia, mi prende tutto, non lo dico sarcastico né ironico, è stato un sbaglio che ho fatto e non faccio due volte il stesso sbaglio. E Mario l'ha capito pure? Ma è importante che l'ho capito io. Quindi queste le cose di Raiola su Balotelli. Lascerà Liverpool da trionfatore, mi sa che rimane lì un bel pezzo. E poi ho sbagliato a portarlo in Italia, sarà contento il Milan. Ma anche perché evidentemente lui, lo ha spiegato anche nell'intervista sul cartaceo, riteneva che lì al City ci fosse le condizioni perché fosse trattato in maniera più equa. Sì. Qui in Italia era coccolato, non solo perché al Milan lo avevano scelto come leader e lui ha ammesso non è un leader, ma perché ha esposto anche un'altra criticità del calcio italiano, che poi spiegheremo domani meglio. In Italia ci si aspetta le grandi giocate, ma non chiediamo ai calciatori che giochino per tutta la partita, e quindi lui doveva ancora superare questa fase, migliorarsi. Per cui, per modo di vedere di Raiola, Balotelli aveva bisogno ancora di questa palestra, che sarà quella di Liverpool. Per sì. O a Liverpool impara a giocare anche per i compagni, oppure non farà mai il salto di qualità. Ecco perché ritorna il tema. Raiola, o Raiola che dir si voglia, e fa guadagnare i propri calciatori perché è bravo a vendere, o anche perché è bravo a intuire le loro qualità e a inculcare loro il modo per cercare sempre il meglio? Io credo che ci sono le due qualità, ma se Raiola fosse solo attento al denaro, non credo che non sapesse scegliere i propri partner. C'era un'altra battuta oggi bella, quella riferita a Nyang, quando ha detto ho sbagliato a prenderlo perché lui non aveva quel tipo di aspettative. ha detto: quando un calciatore quando mi sceglie non deve prendermi per un taxista, è lui che deve portare me, non io lui. È una battuta molto bella che fa capire questo concetto che ho appena espresso. Sì, certo. Caro, ti faccio fare un paio di domande dagli ascoltatori, poi ti saluto. Pasquale Foggia, buongiorno. Pasquale? Sì, mi senti? Dica. Ho due notizie da raccontarvi. Prego. Allora, la prima è questa: adesso con il nuovo acquisto destro, chi è che farà giocare destro e si siederà in panchina? Parlando di Inzaghi, sì, che destro è un grande giocatore, ha fatto pure il gol del pareggio contro la Fiorentina. Sì. E poi l'altra notizia è questa: il Milan, nelle prossime ore, fino al 2 di febbraio, ci sarà un altro giocatore che acquisterà, sì o no? Adesso le faccio rispondere da Carlo Laudisa a Saverio da Varese, così facciamo una risposta cumulativa. Dica, buongiorno. Ciao, grazie. Ciao. Per la convocazione, spero che facciate sentire altri passaggi di Raiola, perché il suo italiano da zio d'America è fantastico. Sì, ne abbiamo. Allora, io invece volevo parlare di Pogba, perché sì, secondo me, vedendo la partita di ieri sera, ho visto un Llorente fortemente involuto. E ho visto un Vidal che secondo me si sente ormai fuori dal progetto, ecco. Sì. Secondo me con la vendita di questi due, risparmiando sui loro ingaggi, gli fai almeno un triennale a Pogba e te lo tieni per un altro paio d'anni, poi magari lo rivendi fra due anni, guadagni molto di più. Sentiamo Carlo Laudisa come risponde a queste due, sul Milan è evidente che in questo momento Pazzini va sul mercato nonostante Gagliani di no. Juventus? Juventus, c'è il Torino, la Lazio, lo vogliono tutti, vedremo. Dipenderà, sceglierà Pazzini e poi vedremo se il Milan, appunto, come poi lo sostituirà. Perché sarà dell'altro Milan. Un Milan con due punte, questo l'ho detto in apertura. E sarà saranno destra e Menez. Farà dell'altro il Milan da qui a lunedì? Sì. Qualcos'altro farà anche a centrocampo. Vediamo se arriva Baselli, se va via Sien. Comunque è interessante vedere che il Milan sta continuando a svecchiare o comunque a togliere i rami secchi e provare ad aprire un nuovo. Quindi rivoluzione d'inverno. E quanto diceva il nostro ascoltatore sulla Juventus, Vidal e Llorente come cessioni per finanziare, non come dice Sandro Veronesi, il con 2 euro? Il mercato, questo non lo dice solo Raiola, sì, il mercato lo fa compra, non chi vende. Sì. Se io voglio vendere Vidal e Llorente che giocano male, non ho la garanzia di poter avere l'offerta che mi dia poi i soldi per sostituirli. Uh-huh. E il giocatore va venduto con dei in ascesa, mai in discesa, perché altrimenti lo svendi. Certo. Quindi questi ragionamenti, io l'ho dato da osservatore, vale per la Juve, ma passo anche per l'Inter e il Milan negli anni passati. Se si fa il calcolo che vendendo quei giocatori puoi tenere Pogba, è un errore. Sì. Non è questa la considerazione. Io credo che la prossima estate la Juventus, se ha un'offerta effettivamente che convinca Pogba e che porti i denari che possono permettere di cambiare effettivamente la squadra, accadde con Zidane e all'epoca la Juve lo sostituì brillantemente. E credo che ci siano i presupposti per farlo anche questa volta. Se avviene questo, bisogna essere pragmatici e cercare di seguire al meglio la società. Se non dovesse rimanere, se invece dovesse rimanere perché non arriva un'offerta adeguata, è importante la frase di Raiola, perché esprime anche il concetto del calciatore: non ha fretta di andare via. Certo. Sarebbe brutto, e anche il fatto di aver rinnovato è coerente con questo. Se Pogba avesse ormai considerato chiusa la sua esperienza da Juve, allora sì che la società sarebbe in difficoltà. Non è così, quindi la Juve ha tutto il tempo per progettare i prossimi mesi e rinforzarsi, perché è chiaro che l'obiettivo è quello di rendere sempre la Juve più competitiva con o senza Pogba. Certo, grazie Carlo, buon lavoro. Grazie a voi, un ciao, saluto a tutti. Ciao Carlo Laudisa. 800 24 00 24. Poi arriva Pardo, dopo le tre parliamo anche di Cassano, parliamo di Osvaldo Desaparecido. Volete parlare anche della ultima della Juventus ieri sera? Ma magari no. Alvise, provincia di Venezia, Pietro da Verona, come volete voi. Continuiamo a parlare di mercato, anche la Lazio per Pazzini, si è raffreddata la pista Berghessio e chi per la Roma, Luis Adriano oppure qualcun altro, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. A dopo. Ma se rimanesse ancora un altro anno invece? Anche questo è possibile. Quindi non lo escludiamo? No, no, abbiamo firmato un contratto di 5 anni, quindi questo è il primo del rinnovo, quindi potrebbe anche rimanere. La Juve deve valutare le sue cose, noi dobbiamo valutare le nostre e poi vedremo, sia il momento. L'anno scorso non era il momento, quest'inverno abbiamo già detto di no, forse ci sarà anche lì il prossimo mercato per dire di no, non lo so. Convocati. Secondo Sky Sport, il Chelsea avrebbe deciso di scucire i 35 milioni. Mourinho avrebbe deciso di scucire i 35 milioni che servono per portare a Londra subito Cuadrado dalla Fiorentina. Questa è una notizia che vi giriamo così. Arrivo, un attimo. 800 024 0024, il vostro numero verde, Alvise, provincia di Venezia. Buongiorno. Alvise, buongiorno, come sta? Senta, eccomi. Bene, lei? Molto bene, molto bene. Bene. Una domanda e una sua considerazione. Sì. Cambiamo sport, basket. Sì, tra poco cambiamo e passiamo anche a un altro sport prima di tornare al calcio. Ma aspettate, state con noi. Grazie. Sì. Una sua considerazione su, secondo me, e non ne parla nessuno, la vera novità del campionato di basket di quest'anno, che è la Reyer Venezia. Sì. Io penso, ho un'idea, che secondo me quest'anno riesce a arrivare in finale. Sento che i giornali non ne parlano, parlano sempre dell'Olimpia, ma ho visto che l'Olimpia in finale ci arriva. Quello sì. Penso volevo di sì. Una sua, no, certamente, ma non sono d'accordo semplicemente sul fatto che i giornali non ne parlino della resurrezione veneziana, del rinascimento, del nuovo rinascimento veneziano. Si è parlato a lungo con Recalcati, con una squadra costruita molto bene. Col presidente, certo, validissimo Brugnaro che comunque ha investito molti quattrini nella resurrezione veneziana, con alterne fortune fino a questa stagione in cui la chimica che si è creata premia Venezia, che gioca tra l'altro una delle migliori pallacanestro in Serie A. Non ci sono dubbi su questo. Ho poi ancora nel cuore il grandissimo Dragan Dalipagic, non so se lei te lo ricorda. Abbastanza. Mi ricordo Dalipagic e mi ricordo sì, che ha giocato lì per lunghe stagioni, ma mi ricordo anche una Venezia con Dalipagic e Spencer Haywood. Non so se la ricorda lei quella. Sì. Targata carriera con Spencer Haywood, che arrivò in Italia, era una superstar dell'NBA, una vera superstar dell'NBA, molto pigro. Narrano le cronache, i racconti, che un giorno stavano facendo gli esercizi di ball handling sdraiati a terra, cioè di trattamento della palla sdraiati a terra, e con coach Tonino Zorzi Spencer Haywood si addormentò. Poi, per il resto, Venezia sta giocando una grande pallacanestro ed è la grande rivelazione, insieme, però me lo permetta, a Reggio Emilia. Pietro Verona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Genta. Dica. Senta, io volevo tornare sul discorso di Raiola, meno male che l'avete tirato fuori oggi, perché sì, era un po' che ce l'avevo da esprimere. Sì. Il signor Raiola, che lui è un procuratore, però mi sembra che oltre a fare il lavoro di procuratore va a influire anche un po' sulla vita privata dei vari giocatori. Ce l'abbiamo avuto tutti sotto gli occhi l'esempio di Balotelli. Lui può dire quello che vuole, ma Balotelli nel momento attuale non so quante squadre farebbero botte per Cacca. Nessuna, ecco. Anche perché guadagna 6 milioni l'anno, veda lei. Ecco, e questo forse è anche merito suo, che l'ha messo sempre sotto i riflettori, l'ha difeso quando non doveva difenderlo e l'ha fatto poco crescere dal punto di vista umano, mi sembra. Non vorrei che lo stesso. Sì, però Pietro, mi perdoni, non è che deve fargli anche da zio, mamma, papà, badante, eccetera, perché ha molti altri giocatori. Mi viene in mente Ibrahimovic, che non è esattamente uno tranquillo, e anzi, Raiola su Balotelli ha detto che deve essere cattivo come Ibra. Se fossero rimasti insieme, Zlatan l'avrebbe menato, gliel'avrebbe suonate. Non è compito di Mino Raiola dormire a casa sua e portarlo a letto presto, impedirgli di fare certe stronzate. Quindi non imputerei questo compito, non addosserei questo compito al procuratore. Se non il compito del procuratore, quello può essere quello di cercare di tenerlo il più tranquillo possibile, perché nessuno, nemmeno lui, ha da guadagnarci con le scemenze di Balotelli, che quest'anno è molto meno visibile da questo punto di vista, però è totalmente invisibile sul campo, e credo che questo preoccupi, al di là delle parole, il suo procuratore. Voglio parlare di aprire una parentesi su un'altra cosa e anche su un altro mercato. Abbiamo provato già qualche cosa della moto 2015, non tutta insieme. Non mi aspetto che ci siano delle grandissime novità, perché comunque la Yamaha fa un lavoro piccolo su tutti i dettagli, però più o meno il progetto rimane lo stesso, ecco. Però la moto andava già bene, quindi bisognerebbe solo migliorare ancora un po'. L'anno scorso, nel primo test, è stato importante che io sono stato subito competitivo, sono arrivato vicino a Marquez nel giro secco, ma nella simulazione di gara Marquez ci dava 7-8 decimi a giro, tantissimo. E quella era un po' la differenza di prestazioni in quel momento fra Marquez e la Honda e noi con la Yamaha. E poi dopo Marquez si è fatto male, no? E quindi dopo ha saltato un test, eccetera. Però già in Malesia riusciremo a capire se, soprattutto come passo gara, potremmo essere più vicini a lui. Presentata ieri a Madrid la nuova Yamaha, che sarà quella di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, naturalmente. Valentino ha una voglia dannata della decima, l'ha detto anche lui, del decimo titolo. Peccato che ci siano non il Barcellona di Messi, ma la Honda di Marquez, che fanno anche più paura. Roberto Ungaro, direttore di Riders, ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Grande voglia di decima di Valentino, ma d'altra parte ho letto anche un'intervista che hai scritto tu su Riders qualche tempo fa del suo meccanico, capo meccanico Silvano Galbusera, che ha confermato tutto questo, ma ha anche detto: loro Honda sono più avanti di noi. Questo gap ti aspetti che possa essere colmato? Possiamo aspettarci una partenza di mondiale simile alla fine dell'anno scorso? Beh, partire da lì sì, perché ovviamente Vale è già rodato e appunto non ci sono rivoluzioni tecniche, perché come tutti sapete nel 2016 arriverà un nuovo scarpaio, come diciamo noi, cioè Michelin sostituirà Bridgestone, e dovete sapere che la gomma è un componente non importante di più per lo sviluppo delle moto, delle case, e quindi tutto sarà in funzione di quella gomma, e quindi stanno già provando ovviamente. L'unica novità tecnica importante è che la Yamaha ha fatto questo cambio seamless come la Honda, perché l'anno scorso ce l'aveva solo in accelerazione, cioè salendo di marcia, mentre invece adesso anche in scalata, come già la Honda ce l'aveva, quindi un piccolo gap che ha recuperato. Diciamo che i livelli in campo sono quelli che abbiamo lasciato alla fine dell'anno scorso. Valentino può solo migliorare, facendo secondo vede il numero uno sulla carena. Marquez è Marquez, il compagno di squadra si è ritrovato, perché l'anno scorso sappiamo tutti si presentò ingrassato, di testa non a posto, e fece degli errori, però poi sul fine della stagione fece vedere la sua stoffa. Decisamente una bella stagione in attesa della rivoluzione 2016. Sì. Attenzione anche a Pedrosa, perché ha voluto cambiare il suo tecnico, perché adesso l'uomo più importante non è più il vecchio meccanico che la sa lunga con esperienza, ma è l'elettronico. Sì. Le moto sono delle Formula 1 con due ruote in meno, l'elettronica la fa da padrone, e quindi magari l'ingegnerino giovane che però sa gestire bene una tastiera forse può far la differenza. Staremo a vedere Pedrosa, anche se nella lotta per il titolo sicuramente non c'è. Sì, bisogna capire se l'inverno appunto non ha ristabilito le distanze rispetto al finale della scorsa stagione con la Honda, che secondo me, io continuo a pensare, sia proprio come dici tu, qualche passo avanti dal punto di vista dell'elettronica. Sì, la Honda è nettamente meglio in frenata e in percorrenza curva, e soprattutto nel mettere a terra i cavalli, grazie anche a questo cambio. Poi c'è Marquez, che la guida solo lui in quel modo. Valentino si è affinato tanto, ha lavorato, si sta allenando tanto, più che in palestra come tutti gli altri, lui si allena divertendosi alla sua pista. Al ranch, abbiamo visto le foto. Esatto, e questa è una bella cosa, perché proprio non è che lui non sia meticoloso nell'allenarsi fisicamente, ma preferisce l'allenamento in moto piuttosto che tra due mura e tra due attrezzi. E quindi staremo a vedere, perché la lotta sarà tutta tra Lorenzo, cioè tra Marquez e Lorenzo Valentino, a seconda di, bisogna un po' capire come anche lo stato emotivo. Valentino parte col piede giusto quest'anno rispetto all'anno scorso, ma ripeto, la rivoluzione arriverà nel 2016. Roberto, ti chiedo un istante di pazienza per il traffico, poi ti voglio chiedere altre due cose, una sulla Ducati e una sul mercato. No, andiamo avanti, non c'è il traffico? Dopo il traffico, e allora chiedo a Roberto Ungaro voglia di Ducati, con Dovizioso, con Iannone. L'anno scorso, secondo me, una grandissima stagione della Rossa, se me lo permetti. Sì, nel rapporto qualità-prezzo, nel rapporto qualità-prezzo. Si arrivava da una stagione deludente con Valentino, e si sa che se c'è su Valentino la moto può solo andare bene, o perlomeno si è nelle condizioni di esprimerla al 110%. Bene, con Valentino non è stato così, però è arrivato da linea, ha fatto un gran lavoro, ci sono stati dei fuochi di paglia, la moto è andata avanti. Adesso interessante sarà vedere il nuovo ufficiale Andrea Iannone, che è esattamente l'opposto di Dovizioso, perché Andrea meticoloso, è un collaudatore molto fine, quindi è una persona che riesce a calcolatore, metodico. Invece Andrea è un talento irruente, ho il cuore oltre l'ostacolo. Interessante per noi spettatori sarà vedere la convivenza di questi due personaggi, che sono il sole e la luna, l'acqua e l'olio, quindi la gestione. Non vorrei essere in ciabatti il responsabile della squadra, perché sarà veramente da ridere, però la Ducati prestazionalmente viene fuori, è avvantaggiata dal regolamento, diciamolo, perché questo è, e potrebbe fare degli exploit. Dallini ha dichiarato che almeno una vittoria ci deve arrivare nel 2015, e stanno già lavorando tanto. So per certo che con le Michelin stanno già facendo tante cose, e la nuova moto rivoluzionaria sarà quella là, ancora 2016, quindi però aspettiamoci degli ingressi nel podio di Ducati, quello sicuramente. Adesso sì, ti chiedo un attimo di pazienza, poi ancora una domanda per te, Roberto Ungaro. Strade, quest'anno ti dai 6 gare per vedere se posso essere competitivo per vincere il mondiale, ecco, se posso essere veramente un avversario in grado di mettere in difficoltà Lorenzo Marquez. Tutti convocati. Allora, Roberto Ungaro, direttore di Riders, parliamo tantissimo in questi giorni di calcio mercato, ma c'è anche un mercato dei giornalisti che porterà a un ritorno in cabina di commento con Sky, che ha comprato, ha inchiostrato, ha strappato a Mediaset Guido Meda. Guido torna al suo grande amore, Guido non poteva stare senza la MotoGP, e quindi Sky ha preso Guido non solo come voce ma come vice responsabile dello sport, quindi 2-4 ruote. Guido farà un gran lavoro. L'abbonamento, la TV privata è un altro discorso, quello non è detto che torneranno i tempi d'oro in cui Valentino era pubblico, quindi alla fine riusciva a vederlo anche la casalinga di Voghera. Però Guido è un fuoriclasse, è un dei neologismi, è uno stile, è tutto suo, e quindi sicuramente ha sofferto questo l'anno che è passato in Superbike, perché non era la sua disciplina, anche se da professionista lui potrebbe fare anche le boccette, ricordiamolo che arriva dal ciclismo, dallo sci, quindi un professionista fa qualsiasi cosa. E sarà divertente però vedere accoppiata, perché è da dire, è una accoppiata tra Guido e Valentino, che c'è una simbiosi pazzesca, è un matrimonio emotivo, e quindi potremo sicuramente godere se la prestazione si avvicinerà all'apice, in questo senso. E c'è da capire la squadra, se verrà rifatta o meno, staremo a vedere, però insomma una bella stagione, perché un po' di cambiamenti ci sono. In tutto questo soffre un po' forse la Superbike, che vive nell'ombra della MotoGP, non ci sono celebrities, non ci sono campioni, non ci sono personalità che riescono a strappare un titolo in prima pagina, però insomma stiamo a vedere, ecco. Grazie Roby, grazie Roberto Ungaro. A te caro. Grazie come sempre. Tutti. Un abbraccio Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ascoltatori subito a tappeto 800240024. Come piace dire al mio amico Giorgio De Luca Fiorenzo da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Quadrado fa le valigie, Sì, prende va, e va. Speriamo di no, però. No, io spero anch'io, perché sarebbe un peccato. No, sto parlando seriamente, spero anch'io, perché sarebbe un peccato per il campionato italiano, che già non ne ha di superstar, a vedere partire a gennaio un giocatore così. Però dicono che Mourinho abbia detto: vabbè, vogliono sti 35, da lì non fanno un passo indietro, quello previsto dal clausola rescissoria lo voglio subito, eccoli qua. Così pare. Io ho un'idea. Sì, la dica. Potrebbe funzionare Cassano nel caso alla Fiorentina? Cassano alla Fiorentina, sì. Si è svincolato. No, no, ma Cassano, è un po' pazzo. Cassano anche lui è stato avvicinato alla Fiorentina, cioè, diverse volte. Senza mai concludere. Questa volta per 6 mesi potrebbe anche funzionare. Potrebbe anche funzionare, potrebbe essere un'idea, dopo lo chiediamo a Pardo, che è certamente più informato. Ma Cassano mi risulta che in questi giorni sia stato chiamato, o in qualche caso dicono si sia offerto ad esempio alla Roma, quindi è stato accostato a molti club, compresa la Fiorentina. Poi d'altra parte, se ora va via Cuadrado, è chiaro che la Fiorentina dovrà correre ho sentito Guerini l'altro giorno, cioè se va via Cuadrado siamo già pronti con le contromosse, chiaramente non si faranno trovare impreparati, però se va via questo giocatore è chiaro che qualcuno in ingresso ci dovrà essere. Idea Cassano, perché no, vi piace? Fiorentini 800240024. Nico, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, ho sentito la trasmissione in replica di ieri. Sì. E volevo parlare del Milan, appunto, perché sentivo ieri che parlavate appunto con Milan e Serafini, e si sosteneva appunto che il Milan avesse una rosa imbarazzante al di sotto di Atalanta, eccetera. Io prima di tutto non credo che sia così, perché comunque, lasciando perdere Alex, che dicono sia un paracarro, alla fine sì, è un paracarro perché è vecchiotto e i suoi chili ce li ha, però non è un brutto giocatore, nel senso, magari in Francia aveva più vita facile per quelle seconde punte che sono in Italia, che poi alla fine diciamo che è così scarso, ma tra Dybala e altri giocatori che sono venuti fuori, nel senso, non avremo più soldi di una volta, ma gli acquisti sappiamo sempre dove andarli a fare in qualche modo. E in secondo luogo io dico e credo che Inzaghi, adesso non voglio fare uno dei milioni di tecnici in Italia, ma se riuscisse a mediare un po' col modulo che vuol fare, magari imbastendo anche un centrocampo a tre con due mediani seri, uno lanciano già che è De Jong, Montolivo si deve recuperare perché è fuori condizione. Quello è quello che sta facendo, no? Centrocampo a tre, esatto. Il problema è che è un centrocampo pieno di mediani, è un centrocampo, esatto, che non ha qualità, non riesce a far ripartire l'azione. Sì. Però adesso, dopo questa che è davvero una rivoluzione di inverno, perché è arrivato Bocchetti, è arrivato Destro ed entrambi sono ufficiali, l'Audisa ha detto che qualcos'altro si farà, si era parlato di Tarat, pare proprio che ci siano degli indizi che portano ad un rinnovamento, a un ringiovanimento del centrocampo, e è chiaramente bollito, ma da quando è arrivato ci sono giocatori in uscita, ce ne saranno anche altri in entrata, quindi qualcos'altro il Milan potrebbe fare, e si legge da ogni parte che Inzaghi potrebbe andare verso un 4-4-2 con una coppia d'attacco Destro Menez, e non sarebbe una cattiva idea, secondo me. Arrivo? È lui? Galliani, un attimo. Galliani che ha suonato. Prima di Marco Dalla Spezia, mi fate sentire Donadoni ieri sera dopo la partita con la Juventus? Grazie. I ragazzi hanno veramente fatto un'ottima prestazione, quindi oggi non si può veramente assolutamente imputare nulla a nessuno. È chiaro che quando poi perdi al 90esimo su un gol che è in fuorigioco, e domenica scorsa perdi una partita quando 2 minuti prima c'era un calcio di rigore per te e non te lo fischiano, diventa tutto veramente ancora più ingiusto. Non parlo mai degli arbitri della serie, non parlo mai degli arbitri. Ci può stare, ci può stare, caro Rafa, tu sì che non parli mai degli arbitri. Ma poi ne abbiamo un'altra bella, tra Donadoni e Cassano, dopo le 15, state con noi. 800240024. Marco, dunque, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ecco, io volevo fare un intervento e poi una domanda al conduttore, che ho scoperto che i conduttori sono più competenti, sono tra le persone più competenti di calcio. E in parte mi ha un po' bruciato l'intervento di prima, però era questo: io ho qualche dubbio sul progetto Milan. Io sono milanista da tanti anni, però ora l'emergenza subito che si vede nella squadra, cosa sono? I tre centrali, il centrocampo, e il Milan va a prendere un attaccante, tanto di Cappello a destra, che è un buonissimo attaccante, eccetera. Però se queste sono le le misure, cioè qualche dubbio viene sulla chiarezza, sui movimenti, su avere un'idea precisa di cosa fare nel futuro. Sì. È d'accordo con me che l'emergenza numero uno sono centrali e centrocampo. Sì, sono d'accordo con lei, però mi lasci dire che comunque Destro anni 23 è una manovra proiettata verso il futuro finalmente, cioè non è Fernando Torres che, ripeto, è tornato a segnare anche ieri sera, ha perso 3-2 in casa ma dopo 40 secondi ha fatto un gran gol, però bollito al pari di SE più di SN. È chiaro che Torres non era semplicemente una mossa di mercato marketing, no? Mentre Destro è un signor giocatore più giovane rispetto a Pazzini, che non è nelle grazie di Inzaghi. Tutto sommato il Milan ha fatto, e questo bisogna riconoscerlo, un buon affare portandosi a casa a zero Menes, che è comunque, certo, fin qui il migliore del Milan. Poi è altrettanto, certo, evidente che i reparti che sono in maggiore sofferenza sono la difesa e il centrocampo, perché quel centrocampo dove peraltro è stato inserito Bonaventura e questa potrebbe giocare un centrocampo a 4 e questa insieme a Menes è stata una bella mossa, e anche qui bisogna ammetterlo, di Galliani sul mercato estivo. Ebbene, è chiaro che le sofferenze del Milan derivano da un centrocampo che di qualità è poverissimo. Poi i grandi difensori in questo momento costano molto di più dei grandi attaccanti. Io non posso dimenticare quei 60 milioni che il Paris Saint Germain ha speso per David Luiz, che non è neanche, a mio parere, un grandissimo giocatore. È un buon giocatore, forse ottimo, non grandissimo giocatore. Non è un fuoriclasse, non è uno di quelli che ti cambiano il reparto. Augusto Padova, buongiorno. Arrivo? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Sono intervenuto perché volevo fare due appunti. Allora, stamattina ho ascoltato Canale 5 e hanno precisato subito che la partita della Juventus è stata vinta con un gol di Morata su fuorigioco di Llorente. Sì. Per carità, il fuorigioco c'era, però... Roba di attimi e di millimetri, esatto, sì, è chiaro. Centimetri. Mentre ieri non hanno proprio citato la sconfitta del Milan con la Lazio. Sì. Ecco, non mi sembra un servizio obiettivo. Guardi, non lo so, io a questo non so cosa rispondere. Non ho visto questa mattina, non, mi sembra difficile che non abbiano citato la sconfitta del Milan contro la Lazio. Quanto alla Juventus è stato sottolineato quell'episodio, che si inserisce comunque in questo strano trend per cui tutte le grandi squadre in questo giro di Coppa Italia hanno avuto un refolo, diciamo così, un refolo a favore. Tutti convocati. A volte si sentono dire frasi che sono veramente fine a se stesse, no? Io credo che in situazioni di questo tipo ci vuole molta più dignità a rimanere al comando di una situazione, di un gruppo, piuttosto che dire tutti ciao, arrivederci, e quindi è bene che tutti quanti se ne rendano conto, non tanto per il sottoscritto ma tanto per i ragazzi che comunque stanno facendo veramente enormi sacrifici. Dopo 17 sconfitte parlare di dignità è il colmo. Capisco che hai perso l'occasione per andare via prima e capisco anche l'attaccamento ai soldi. Ma prima o poi qualcuno ti cercherà. Abbi fede, crisantemo. Firmato Antonio Cassano. La Samp la vedo molto male oggi, eh? Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisantemi. Ti ho comprato i primi di novembre. Per cortesia, cerca di non gufare continuamente. Se no ti faccio rimanere nell'occolo tutta la panchina tutta la vita. Ah! Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Toccata pianino, tuo amico Cassano. Sì, credo che ha sbagliato. Dico senza sì, senza ma, nel senso che comunque mi sembra che è una cosa che non aggiunge nulla e che secondo me non gli ha fatto bene. Non gli ha fatto bene dopo invece, secondo me, un'intervista della quale aveva espresso e raccontato con chiarezza. Facciamo la foto, sto tornando a Barry, che parlo di come si dice la foto, di la foto. La foto? una foto. Una foto. Sei sempre a Bari, ecco, giusto? No, sto sull'aereo per la Milano, però è ancora un aereo pieno di gente di Bari, perché partiva da Bari, quindi no, quindi secondo me non è stata un'uscita elegante, su questo non ci sono assolutamente dubbi, e insomma, che altro ti devo dire? Niente, adesso, guarda, adesso c'è Sandro Sabatini da Sky. Probabilmente ci è rimasto male, per aver sentito quella battuta da parte di Donatoni, ma questo non giustifica, io l'avrei veramente lasciata perdere. Cadere. Sì, certo, ma lui non, certe volte non, anche non, credo non ci riesce. Lì per soldi, no, ma non credo Donatoni proprio, sta lì a guidare una barca alla deriva verso Serie B con grande dignità. Ma c'è Sandro Sabatini da Sky? Ciao, ma hai visto Pierluigi Pardo così imbarazzato negli ultimi 10 anni? No, beh, ma non sono d'accordo, lo dico sinceramente, l'ho detto anche in privato, quindi non sono d'accordo perché penso che sia, ribadisco, penso che non sia elegante, insomma, io credo che le due decisioni sono tutte e due nobili, cioè io credo che sia nobile la scelta di rinunciare comunque soldi perché non ci si sente più motivati e questo rimane secondo me, cioè comunque Cassano ha detto no a quasi 4 milioni, poi saranno teorici, saranno difficili da prendere, ma sono soldi, quindi questo rimane come elemento, e Donatoni però secondo me non è che sta facendo una scelta per soldi, appunto sta facendo una scelta di uno che si sente in qualche modo irresponsabile della nave e non l'abbandona fino a quando non lo cacceranno, e probabilmente non l'hanno cacciato perché non hanno i soldi a prenderne un altro, ecco. Super Sandro, dove va? Dove va Cassano? Sapete, no, io so che cosa stupisce, io ho molta simpatia anche se non lo conosco, tantomeno come Pierluigi Cassano, sì. Molta simpatia appunto sia per lui sia per la moglie, la cosa che però fa rimanere male è non tanto uno sfogo al quale peraltro eravamo abituati, poi Cassano li infioretta sempre in maniera anche cinematografica, come in questo caso lo sfogo, no, che è rivolto a Donatoni, che tutto sommato è l'allenatore, che in nazionale gli aveva steso un tappeto azzurro proprio, sì, per averlo al Parma anche, ecco, boh, non lo so, certe volte sembra che questo ragazzo dai piedi straordinari, dal talento unico, faccia fatica comunque a provare affetto nel mondo del calcio, sì, ecco, al di là di qualsiasi altro, anche se adesso si sente, Sandro, che molte squadre lo vogliono, non solo dall'altra parte del mondo, ma anche in questo mondo viene accostata molte squadre, quindi sì, poi non lo so, si dice, poi sai, bisogna sempre vedere, perché poi alla fine quando si va a prendere Cassano, ormai adesso si va a prendere una bottiglia di latte a scadenza ben precisa, perché dopo un po' comunque succede sempre qualcosa per cui non va più bene, certo. E sì, sarebbe sfizioso vederlo, rivederlo anche ad altissimo livello, però credo che le porte del Milan, della Juventus siano chiuse, quelle della Roma siano chiuse, quelle della Lazio siano chiuse. All'Inter io sinceramente credo poco, poi magari mi sbaglio, secondo me alla fine la cosa più sfiziosa potrebbe essere il Genoa, sarebbe veramente una sfida. Sì, sarebbe veramente una sfida all'OK Corral, oppure la Fiorentina, si dice oggi Cuadrado potrebbe andare via, l'avete detto anche voi su Sky, eccetera. Sì, è vero. E potrebbe essere un'idea che già in passato c'è stata. Ma a proposito di cinematografia e di cinematografi e di cinematografari, c'è stata la presentazione di Eto'o alla Sampdoria, Acquario di Genova, presidente Ferrero. Ciao Ilaria, un po' che una palla a Madano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili: cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria, ne la faccio più. Che dire, arrieccici. Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui a presentare un signore che si presenta da solo. Non ha bisogno di commenti, c'è una frase mitica sua che dice: le finali di Champions si vincono. Non è proprio così, però siamo lì, no? Non si giocano ma si vincono. Ripeto, siete voi a dire qualcosa di importante, perché lui è un grande calciatore e sono orgoglioso di averlo qui in Samp. Gli ho fatto una corte spietata, però alla fine ho avuto il fascino e ho accettato. Sono venuto qui 7 mesi fa, avevo la maglia numero 10, ve la ricordate? Qualcuno se la ricorda la maglia numero 10? Adesso abbiamo la maglia numero 101, perché questa è la carica dei 101. Oggi ci devono rispettare molto tutti quanti, perché non c'è soltanto Juventus, Roma, Milan, Inter, le solite note. C'è la Sampdoria che ci andremo a giocare ogni settimana la gara e non temiamo nessuno. Beh, Pardo, quasi sottotono, quasi in soggezione nei confronti del principe nero, Però insomma io ribadisco che secondo me per ora, per quello che possiamo vedere, sta facendo benissimo. Innanzitutto perché secondo me ha lasciato fino a questo momento una grande libertà tecnica a Bjelovic, sì. Cioè, è stato tanto invadente, se vogliamo, spumeggiante, scatenato dal punto di vista mediatico, quanto invece rispettoso degli spazi dell'area tecnica. E questa è secondo me una grande dote di un presidente. Adesso si è concesso questo sfizio che chiaramente è bello, è affascinante, è letterario, è anche commerciale, e vedremo quello che potrà dare Tozzo. Io sono particolarmente felice che sia tornato in Italia, e l'ho conosciuto quando abbiamo scritto insieme l'autobiografia qualche anno fa. Per me è uno di quei calciatori che hanno un fascino, sì, straordinario, un carisma enorme, quindi è una bellissima storia, e vediamo che succede. La possibilità che possa essere ingombrante c'è, però insomma se arriva in buone condizioni fisiche può anche fare la differenza, insomma, sì. Nel campionato italiano. Sì. A proposito di Mihajlovic, Sandro Sabatini oggi in questa intervista sul Corriere della Sera a tutta pagina non ha nascosto qual è il suo sogno allenatore, che è sempre quello ed è ben noto, no? Un giorno spero di arrivarci all'Inter, avere ambizioni non è reato, tanto adesso su quella panchina siede il suo amico. Eh sì, è vero, allora parliamo di Mihajlovic e di Mancini, che sono per ora i personaggi ancora che non sono elencati nella bibliografia di Pierluigi Pardo, insomma, sì. Allora no, Mihajlovic sì, l'ha sempre detto, poi non so se comunque fosse una cosa più che altro da epoca Moratti o ancora adesso valida. Secondo me comunque Mihajlovic è un allenatore che la panchina quest'estate se la potrà scegliere, perché avrà talmente tante richieste, perché poi alla fine, cioè, che cosa succederà quest'estate? Che la prima, che sia la Juventus o la Roma, dirà che la stagione è andata ok, chi arriva seconda già interpreterà la stagione in maniera quasi fallimentare, quindi di conseguenza ci saranno un sacco di panchine libere, secondo me, quest'estate, e tutte punteranno innanzitutto su Mihajlovic. Certo, che non vedo una corsa all'Inter, semmai vedo magari un'ipotesi tipo Mancini super manager e Mihajlovic in panchina, perché sì, no? L'abbiamo sentita, anche questa rimbalzata. Io penso che sia la prima scelta del Napoli in caso di addio a Benitez. Dici? Sì, credo che lì sia, credo che De Laurentiis lo stimi moltissimo, e secondo me non hanno ancora deciso De Laurentiis e Benitez, quindi è ancora da capire se rimarrà. Ma se no altra voce è Montella Napoli, Mihajlovic a Firenze, sì. Meno, sì, meno. Ma questa mi sembra una voce di qualche tempo fa. Ultimamente mi sembra che Mihajlovic stia piacendo davvero molto. Del resto la stagione che sta facendo fin qui non è banale, è una stagione di altissimo profilo. E poi credo anche che dopo, insomma, le caratteristiche umane di Benitez, diciamo abbastanza pacioso, abbastanza, no? Uno come Mihajlovic potrebbe anche intrigare lo staff del Napoli, soprattutto. A proposito poi di cose lette sul giornale oggi, ma particolarmente colpito sull'intervista di Raiola sulla Gazzetta, in cui parlava di Hamsik come di un giocatore spento dalla sua permanenza a Napoli. Però Mihajlovic potrebbe essere l'allenatore giusto che gli rimette un attimo di elettricità. Sì. Un attimo di elettricità. Quello non può essere Benitez, che con il quale non si prende, ma credo essenzialmente per ragioni tattiche lo mette in un ruolo che anzi non piace, questo non è un mistero. Ragazzi, ascoltatori, Matteo da Forlì, rispondiamo insieme. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Ciao, dimmi. Ciao. Volevo, ciao, oltre a fare, se posso, i complimenti a Pardo per le telecronache che fa di calcio, grazie, che è uno dei pochissimi ascoltabili. Sono reduce da una partita di ieri sera dove al 40° del primo tempo mi sono addormentato. Per ringraziamo la parte della categoria, diciamo, è l'ordine dei giornalisti. Grazie. Volevo solo fare una notazione sulla Coppa Italia. Io ho il sospetto, penso che non sono l'unico, che ci sia un po' la volontà di far arrivare almeno in semifinale le squadre che fanno più audience. E questo tema mi piace, anche perché il trend è quello, se vogliamo fare i maliziosi anche oggi, Sì. No, io lo dico non tanto per la partita della Roma, quella della Juve di ieri sera, lo dico ad esempio per la partita di Cagliari che ci fu, mi sembra, con Novara, partita molto strana, finita tanti gol, poi alla fine comunque c'è sempre la squadra che Serie A, che è più in alto in classifica, che ce la fa sempre in un modo o nell'altro, un po' così, sospetto. Vi ascolto per radio. Sì, allora rispondono Pardo e Sabatini. Sì, sospetto, guarda, abbiamo parlato dopo Roma-Empoli, dopo Napoli-Udinese, ovviamente dopo Parma-Juve, se uno aveva il sospetto gli è quasi confermato. Io non penso a un complotto della Rai, francamente, per avere degli ascolti più alti in occasione delle semifinali o della finale. Penso che in generale la mia idea di questa stagione è che è una stagione con molti errori arbitrali, come sempre, ma con errori abbastanza ripartiti sul campionato. L'ho detto mille volte, io se dovessi giudicare da alcune partite dovrei pensare che c'è un complotto a favore della Juve, altre però mi dicono l'esatto contrario, perché pure la Roma è stata avvantaggiata, pure il Napoli è stato avvantaggiato in alcune partite, per cui mi sembra che la tendenza sia quella, sia la vecchia, al massimo possa esserci il sospetto della famosa sudditanza, no? Cioè che comunque alla fine sulle 38 partite le squadre un po' più forti, un po' più di prestigio, hanno qualche favore. Un sacco di indizi in questo giro. La Coppa Italia da questo punto di vista è clamoroso, ma insomma, pensare io ai complotti, ripeto, nemmeno io ci limitiamo a notare questa curiosità, Sandro Sabatini. Ma guarda, è una curiosità, poi ora sinceramente il fuorigioco di ieri è stata una questione veramente di 10 centimetri, sì. Ecco, i due rigori, quello della Roma e quello del Napoli, sì, erano sembrati più evidenti, insomma. Poi il fuorigioco di ieri è una questione davvero di centimetri, e poi su un campo che a me mi ha colpito moltissimo, perché io credo che Ghirardi o il Parma così non stiano pagando neanche il giardiniere, perché diciamole anche, lanciamo un allarme campo a Parma, perché un campo così spelacchiato e rovinato, temo che ci siano delle pendenze ancora aperte con chi lo deve annaffiare. Ma quasi certo questo. Forse il giardiniere vigliaccamente è sparito. Sì, con Cassano. Magari è andato al giardino di Cassano che riscuote, capito? A curare. Fabio Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma due cose se riesco. Intanto dico questo, allora, complotti, mi sembra, cioè, chi parla di complotti così è no, proprio complotti. No, il discorso dei complotti, campionati falsati, sono discorsi un po' infantili da quando da ragazzino, no, sfottigliati, quindi non ci voglio neanche passare. Diciamo però che secondo me è vero che i giornalisti devono dire quello che fa notizia, ma è vero anche che hanno molto fomentato questo tipo di atteggiamento. Esempio, finisce la partita Napoli-Juve 1-3, grande impresa della Juve, si poteva fare tante cose, la prima cosa che hanno detto su Sky, la prima, vediamo subito le polemiche. Ecco, questo qui è un po' l'atteggiamento che hanno i giornalisti oggi. Ti posso interrompere? Prego, guarda, prego. Caro Fabio da Cremona. Allora, i giornalisti, e qui Pierluigi Pardo che è molto attivo sui social potrà confermare, come il luogo comune dei complotti, il luogo comune anche dei giornalisti che fomentano le polemiche, perché i giornalisti, e te lo puoi, ripeto, testimoniare Pierluigi Pardo, se aprono poi Twitter o un qualsiasi social subito dopo una partita, dice: allora quando è che parlate di questo che hanno rubato, quando è che parlate di questo, quando è che parlate così. E poi altra cosa, e qui veramente la faccio molto breve, su Sky a presentare questa partita, qui non faccio pubblicità all'azienda, non lo dico soltanto perché poi cerchiamo di fare luoghi comuni, a presentare quella partita chi c'era, il post partita, se non sbaglio, Ilaria D'Amico, che quindi entra dentro e dice: vediamo un po' l'episodio del fuorigioco sul gol della Juventus, lei che è la donna di Buffon. Io ti credo che il massimo è stato, capito? Secondo me su questo, sull'onestà intellettuale, vi prego veramente, davvero, io molto banalmente posso dirti che l'altro giorno alla fine del primo tempo ho ascoltato Graziano Cesari di Lazio Milan e c'era chiaramente il secondo rigore era altissimo, no? Quello della trattenuta di Mexer su Mauri. Sul primo ci poteva essere qualche dubbio in più, no? A occhio nudo, e lui con le moviole ha detto che c'erano due rigori. Ecco, cioè, questa secondo me è la libertà intellettuale che esiste, e questa cosa succede mille volte. Cioè, Graziano Cesari dice quello che commenta, infatti una volta dice una cosa a favore di Tizio e un'altra volta dice una cosa a favore di Caio. Il problema è che gli episodi arbitrali non è possibile non parlarne, e a me piacerebbe tanto, ma quando hai un presidente come De Laurentiis, ma non soltanto lui, se finisce la partita con la Juve e fa quel tweet lì, come fai a non parlarne? Cioè, davvero, io sono... Cioè, dovresti fare una scelta che è antigiornalistica, che va contro quello di cui tutti, in tutti i bar d'Italia parlano, e pure i diretti interessati. Cioè, diventa una battaglia proprio... Sì, ma poi sono i diretti, sono i diretti interessati molto spesso ad intervenire in queste discussioni, ad accendere queste discussioni, prodomo loro per strategie precise, eccetera, eccetera. Quando e allora che facciamo? Fanno, li censuriamo? Che famo? Quando non lo fanno, e l'abbiamo detto mille volte, poi rischiano tante volte di contraddirsi, sì. Spesso non lo fanno quando ci sono gli episodi a favore e invece lo fanno quando ci sono gli episodi contro, ma tutti, tutti, cioè, non è che io vedo i buoni e i cattivi da questo punto di vista. Poi ci sono periodi e periodi, sicuramente la Juve di Allegri da questo punto di vista rispetto alla Juve di Conte tende ad avere un atteggiamento più morbido, tende a lasciarsi di meno, però la società è la stessa, io lo ricordo, è una scelta, anche quella, ma certo, anche quella è una scelta precisa. Allegri quest'anno sicuramente sta avendo un profilo molto, molto elegante, su questo non ci sono assolutamente dubbi. La società ha scelto questa linea e Allegri è sempre stato molto, molto morbido anche su questo fronte. Comunque il sogno di un telecronista di Sky, di Mediaset e credo anche della Rai è quello di avere una partita in cui non c'è nessun episodio arbitrale, perché se ci sono gli episodi arbitrali il telecronista entra in un loop in cui lo dice, lo ricorda e a quel punto tutto diventa opinabile, perché quante volte lo ricordi che c'è stato un grave errore arbitrale, due, tre, cinque, quanto è troppo, quanto è poco, c'era sempre quello che penserà che l'hai ricordato troppe volte con troppa enfasi e quello che ti dirà che l'hai ricordato poco con poca enfasi. Hai ragione. Il sogno di noi tutti è una partita liscia dove chiudi, una vince, l'altra perde oppure pareggiano e si va a casa normali. Vi chiedo ancora una cosa, poi saluto Sandro Sabatini, non parlo. Destro al Milan, notizia di oggi, è un giocatore che cambia, se sì quanto per il Milan, fa bene Destro a lasciare la corsa a scudetto per andare a correre per nulla? Guarda, secondo me fa bene, perché tanto la Roma non giocava, poi in un modo o nell'altro, insomma, non giocava, era entrato, ho avuto la stessa parola che ho usato per Luigi, in un loop negativo, per cui anche quando giocava sembrava che stesse facendo un favore a se stessa, ai compagni e ai tifosi. E fa bene andare al Milan, io sinceramente ho grande ammirazione per Inzaghi, per quello che ha fatto da calciatore, ma non ho ammirazione per Inzaghi per quello che sta facendo da allenatore. Qui stanno dando un sacco di colpe a Galliani, Berlusconi, Barbara Berlusconi e tutto quanto. Sì, ok, non è più il Milan degli anni d'oro, ma sono passati anche 30 anni dal Milan degli anni d'oro e Inzaghi ha una discreta squadra da allenare, non la sta allenando bene. Ora vediamo se cambierà la formazione. Destro può far bene sicuramente, poi ci sono anche, è bello parlarne come al bar, come della Moviola e tutto, dicendo le cose magari anche un po' fuori dall'ordinario, ma il giocatore più esaltato del Milan, cioè Menez, è quello che in realtà crea più problemi, a mio parere, al Milan stesso. Quindi, insomma, anarchia, è un giocatore che vive nell'anarchia. Sì, uno gioca da solo. E di contro, certamente non gioca da solo, la Roma da anni vive questo straordinario fenomeno che è Totti, che è un giocatore gigantesco che però poi alla fine è un dato di fatto, fin qui ha impedito, ma non perché sia cattivo lui pensa soltanto a far vincere la Roma e ci mancherebbe altro, però in qualche modo con la sua forza, con il suo carisma, con la sua qualità unica, fa sì che poi alla fine sia difficile per un'altra punta centrale riuscire ad esplodere, che era quello che si pensava potesse succedere a Destro. Destro alla fine secondo me non ha fatto male, però forse gli è mancata un po' di personalità e un po' di spazio, e anche perché c'è un totem straordinario come Totti, insomma, è utile girarsi attorno, che anche l'opinione pubblica ti impedisce di rimuovere, stiamo parlando di uno che, voglio dire, a Roma uno così forse tra 100 anni arriverà, certo, uno, certo, che vale Totti, no? Quindi è ovvio che non è facile, ed è altrettanto vero però, insomma, secondo me, che la Roma in questo momento, per esempio, in cui non gioca bene, in alcune partite avrebbe bisogno di un attaccante, diciamo, d'area di rigore a cui potersi appoggiare per cercare la spizzata e l'episodio. La Roma è una squadra che passa solo attraverso il gioco, quando è molto brillante fa cose bellissime, quando è meno brillante fa pareggi a raffica. Sandro, dimmi. L'indiscrezione di oggi però è che la Roma, se non prende Luis Adriano dallo Shakhtar, perché pare che non sono d'accordo con i soldi, prende questo Konoplyanka, che Pierluigi Pardo conosce sicuramente meglio di me, ma anche all'ultimo giorno farà un centravanti in prestito da 6 mesi per avere comunque un'alternativa a Totti, magari di un giocatore non scontento di stare in panchina quando capita e di giocare anche il quarto d'ora come succedeva. Sì, perché è abbastanza illogico cercare Luis Adriano e Salah o Luis Adriano e Konoplyanka, sono giocatori diversi, soprattutto nel momento nel quale vendi destro, insomma. È vero che è un po' anche Garcia che ama giocare con gli esterni, no? È uno che quest'estate l'investimento poteva farlo sull'attaccante centrale, l'ha fatto sui turbe, adesso non ha pagato grandi dividendi. Magari andrà in futuro, però voglio dire, comunque la sua priorità era quella lì. Però insomma è abbastanza strano che si sia cercato Luis Adriano e contestualmente con Oplianca o Salà, e quindi sì, pensaci durante la borsa, magari buttiamo lì qualche nome dopo i mercati finanziari. Sandro Sabatini, grazie, un piacere. Grazie Sandro Sabatini da Sky Borsa. Tutti convocati. Abbiamo indovinato 4-5 risposte da paura nei due break che abbiamo fatto, quindi siamo riusciti a vincere e ora speriamo di riscrivere la storia, di entrare vincendo il torneo. Siamo contenti, ecco, siamo qui che ci vogliamo godere questo momento. Sicuramente, come ho detto, lui era da tanto tempo che non succedeva, adesso meno male è un altro pezzettino di storia del tennis italiano, e quindi cerchiamo di godercela. Ovviamente è una finale, entreranno magari in gioco diverse situazioni come la tensione, la prima finale, però d'altra parte abbiamo una coppia, come ha detto Simone, che anche loro è il primo slam che giocano. Bolelli e Fognini, pennellata di tennis dall'Australia, sono in finale agli Australian Open nel torneo di doppio, dunque una grandissima impresa, prima finale di uno slam, come ricordava Fognini, per la coppia italiana. In campo femminile, finale scontata, la sappiamo, Serenona contro Sua Maestà delle Nevi Sharapova, e abbiamo anche il primo finalista in campo maschile, che è Andina Murray, che nel match che si è giocato nella mattinata italiana ha battuto Berdych 6-7, 6-0, 6-3, 7-5. Parliamo di calcio, facciamo ai suoi ordini, presidente, ai suoi ordini. Pardo? Pierluigi Pardo? Arriva. Un attimo. Antonio da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te e al desaparecido Pardo. Adesso arriva Pardo, desaparecido come al solito. Sì, sì. Ma lo facciamo riapparire magicamente. Scompare, ricompare, dimmi. La magia dei media. Senti, no, volevo dire questo. Prendo atto della vostra teoria precedente. Io sono tifoso del Milan e quindi vuol dire che la Rai non considera il Milan una squadra grande, visto che non è stata favorita del passaggio del turno. Sì. A parte questa battuta. Non l'ho già fatta io prima, però. Scusami allora. Perdono. Volevo dire solo questo. Seguendo il Milan da prima dell'era Berlusconi, ho notato che lui negli anni si è sempre voluto distinguere come innovatore, no? Ricorderai le presentazioni in elicottero, la rosa doppia, una per la Coppa e uno per il campionato, tutte cose nuove che ha portato, e mi piaceva molto quando incominciò a levarsi Leonardo come all'epoca si diceva futuro sostituto di Braida, perché era poliglotta e infatti ha portato anche tanti bei giocatori. Certo. E secondo me l'errore è iniziato a commetterli quando ha forzato Leonardo a fare l'allenatore e poi andarsene, e ci siamo ritrovati senza direttore sportivo dopo il pensionamento di Braida, perché avremmo avuto la figura in casa e non l'abbiamo. Poi arriviamo alla love story della figlia col centravanti e poi arriviamo al doppio amministratore delegato. Secondo me non ha molto a che fare solo a che fare con i soldi, ma sono proprio errori dovuti a scelte sbagliate. Errori gestionali, ma i soldi qualcosa contano. Guarda, non so se è riapparso Pardo, è ricomparso. Sì, ecco, sì, avevo spento muto, quindi parlavo, una scena veramente... La stupidità irreale. È comparso anche Andrea Sorrentino, sai? Nel frattempo. Ah, beh, allora siamo al top. Allora, ciao Andrea. L'ascoltatore dice: vabbè, l'errore capitale è stato quello di far scendere Leonardo dalla scrivania verso la panchina. Non credo sia possa essere così semplice la spiegazione. Ce ne sono delle altre. Sì, vero. Io credo che il Milan si sia persa completamente ormai già da un paio d'anni. Quella che una volta si chiamava la spinta propulsiva, no? Verso il cambiamento, verso i miglioramenti. È un club che è un po' ripiegato su se stesso per tantissimi motivi. Non è mai stato un club come gli altri da quando lo guida Berlusconi, e a maggior ragione da quando Berlusconi fece la famosa discesa in campo, perché poi alla fine il Milan è sempre stato una parte del suo progetto, della politica, no? Della sua politica, del suo progetto, una parte importante della sua immagine come politico. Quindi insomma non è mai stato un club normale il Milan, non lo è neanche adesso, perché Berlusconi è ancora in politica e stiamo vedendo in queste ore ancora con quale peso. Quindi è chiaro che non si possono fare per il Milan i discorsi che si fanno per altri club, però di sicuro l'asse Berlusconi-Galliani da qualche stagione non è più quello di una volta, questo mi sembra chiaro, e credo che prima o poi le cose saranno più chiare, magari già a fine stagione, credo, penso, mi dicono. Sì. Pier, che effetto ti ha fatto il signore del citofono? Galliani che suonava il citofono di destra, aspetta, ti apro, salgo. È un'immagine abbastanza... Prendo il treno, torno a Milano. Qualcuno ha definito emblematica, ma della confusione, della difficoltà che c'è in questo momento, poi in realtà... tutto è deformato dalla lente dei risultati. Se il Milan fosse a testa alla classifica, questa qui sarebbe stata una scena di grande grande forza, di Milan che va a fare un acquisto con uno che va a citofonare in maniera tronfia a casa di un giocatore di un'altra squadra per convincerlo. Quindi poi alla fine i risultati sono quelli che poi decidono tutto, su questo non ci sono assolutamente dubbi. No, sono d'accordo con quello che diceva Andrea, credo che insomma comunque il gallianesimo sia un po' meno forte rispetto a qualche anno fa, bello gallianesimo. E mi sembra che Barbara in questo momento sia abbastanza defilata, e potrebbe essere anche in qualche modo parte di una strategia, di una sana divisione dei compiti che dall'anno scorso poi si è chiarita. Quindi signora Barbara sembra defilata, ma Adriano sembra un po' solo, ma sì, diciamo che l'anno scorso a un certo punto hanno trovato questo equilibrio, i Galliani sulla parte tecnica e Barbara sulla parte più commerciale, e quindi questo è un equilibrio sano in assoluto. Poi quello che succede secondo me in questo momento è anche che ci può essere un'opportunità tattica per Barbara in un momento non così straordinario del club di rimanere un po' defilata, di non bruciarsi, no? Di non sporcarsi tra virgolette con questo tipo di gestione che certamente non è straordinaria in questa fase. Mi sembra tutto molto fluido, ecco, anch'io non sarei sorpreso se dovessero cambiare gli equilibri. Rimane secondo me la sostanza della memoria, no? La memoria, 25 anni di grandi successi che sicuramente in quest'ultima parte si sono stati annacquati da una serie di stagioni negative, indiscutibilmente negative. E poi c'è un altro aspetto, a parte la citofonata di Galliani che ci fa capire come il Milan sia veramente molto in difficoltà in questi ultimi mesi, e cioè è un fatto di questi giorni, magari è trapelato poco dai giornali, ma il Milan ha anche pensato di cambiare Inzaghi, ma non ha trovato nessuno che dicesse di sì, che accettasse. Ci sono stati dei contatti con allenatori importanti come Spalletti, però Spalletti non accetta, è un tipo di allenatore di un certo livello che ha paura di venire a allenare questo Milan. Oggi il Milan, non solo il Milan, ma certamente il Milan viene percepito come un rischio, in qualche modo è un rischio anche per l'Inter, per Mancini e l'Inter, è la scelta che ha fatto. Oggi entrare in questo tipo, è vero che da un lato pressionare è difficile, perché insomma, però è anche vero che poi alla fine comunque ci sono dei rischi. è un rischio per la carriera proprio, per l'immagine di un allenatore. Ti bruci, ti va a bruciare, o sei uno che, non lo so, faccio un nome, Capello, ne faccio un altro, Lippi, e li butto lì totalmente a caso, o sei arrivato, hai fatto un certo tipo di carriera e allora dici va bene, accetto questa ultima sfida, oppure se sei ancora un allenatore giovane di ambizioni rischi davvero di incendiarti. Prima del traffico vi do questa notizia non particolarmente positiva per i tifosi della Roma. Nel corso della visita di Strootman in Olanda è stata rilevata la presenza di una massa di tessuto fibroso rispetto alla quale è stata suggerita la rimozione attraverso l'artroscopia. L'intervento verrà eseguito domani ad Amsterdam e nell'occasione sarà possibile valutare anche lo stato del legamento. Dunque Strootman, intervento in artroscopia, non dovrebbe essere una roba particolarmente lunga, però intanto si ferma ancora. Traffico. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Desaire de Arda Turán, ese malestar cuando lanza la bota con mucha virulencia, le ha costado la cartulina amarilla. El balón para Leo Messi, enviando para Luis Suárez, y este por delante para Neymar, está más adelantado, no hay fuera de juego, ingresa en el área Neymar, el golpeo. Incredibile ieri sera in Coppa del Re. Atletico Madrid Barcellona 2-3, Torres gol lampo, torna subito al gol, maturo per il Milan, dopo 40 secondi bam, si è ancora dato un gol bellissimo. Poi abbiamo visto Arda Turan che lancia con virulentia la scarpa contro il guardaline, lo manca, si becca la cartolina amarilla, cioè solo un giallo, e poi abbiamo visto Jordi Alba steso dal guardaline con una bandierata, e poi abbiamo visto un meraviglioso gol Messi, Suarez, Neymar, e abbiamo pure visto Juan Fran che è andato da Neymar e gli ha fatto segno 7 a casa, ne hai prese 7. Ma Juan Fran è spagnolo o è tedesco? Sorrentino. Così si cerca di fare un po' di tutto in campo, viva le partite divertenti, incasinate, anche sì, un po' violente, ma insomma, almeno sono divertenti, c'è del fuego, del sangue dietro, no? Invece a volte ne vediamo un po' troppo di mosce nel nostro campionato, lì invece... grandi giocatori, grande intensità e anche qualche eccesso. A patto di metterci d'accordo, io sono d'accordissimo, no? Siccome poi quando ci sono invece Pierva, te l'immagini Arda Turan la scarpata? Ma te l'immagini la scarpata di Arda Turan il lunedì, se succede la domenica da noi il lunedì a Tiki-Taka? Cioè, entra la polizia. Ma infatti io dico basta metterci d'accordo, io condivido sostanzialmente quello che dice Andrea, perché comunque alla fine anch'io sono per le emozioni forti, no, ma sì, voglio dire, fa parte di un gioco, bisogna ricordarsi ovviamente che poi con quelli che dicono che quando le partite sono un po' violente, un po' tese, poi no, c'è la classe, c'è sempre il classico ben pensante che dice poi non lamentiamoci se tifosi, ma che c'entra quel gioco? Bisogna capire il problema italiano è tutto quello che c'è intorno prima e dopo la partita di calcio, non la partita di calcio in sé, è tutto quello che... i significati che noi diamo a quella roba lì, le guerre di religione, le guerre di campanile, le polemiche infinite. Qui noi parliamo ancora di calciopoli, capisci? Noi siamo un paese maleducato da questo punto di vista, dal punto di vista generale e anche sportivo. Quella è una partita di calcio bella, vibrante, con un sacco di casini, ma da oggi si pensa ad altro, non è che prendiamo spunto da quello per prendere esempio oppure per azzuffarci a nostra volta, no, chiaro. È quello lo sbaglio. Chiaro, dai, su. Chiaro. Roberto, è colpa di tiki-taka, dai. Eh? Sì, sì, sì, colpa di tiki-taka. Di tiki-taka, è soprattutto degli opinionisti di Repubblica che l'affollano. Sì, affollano, gremiscono. Roberto, buongiorno. Sì, ciao ragazzi, buon pomeriggio, li ascolto molto, sempre molto volentieri. Dimmi. Una considerazione, una domanda. La prima la penso un po' come radioascoltatore di Forlì, sugli arbitri, oltre alla sudditanza psicologica del blasone della squadra che vanno a arbitrare, c'è anche una certa sudditanza nei confronti di chi detta i detentori dei diritti televisivi, perché vedi un po' le partite di Coppa Italia, vedi quello che è successo alla Fiorentina a suo discapito e il Milan portato in Champions, un po' la penso che la sudditanza psicologica ci sia anche con chi detiene i diritti televisivi. Detto questo, non me la vedo la Rai che telefona a Calvarese, io in tutta onestà. Però si è visto proprio degli arbitraggi pro la squadra con un ragione più alto. È stata una stranezza, un'anomalia, certo. Dei quarti, poi semifinali piuttosto più poi interessanti che altro. Poi considerazione sulla mia Inter, che spero che Manzo prepari la squadra per un ritorno di Mourinho come fu qualche anno fa, perché a Zanetti disse a Parma, prima di Parma-Inter, lo incontrai in tribuna e gli dissi: ma non è meglio che insegni qualcosa da Dodo Ambrosio, come si fa a attaccare la profondità e mettere una palla graziata per i nostri attaccanti? Quindi, se proprio precipita la questione Mazzarri, prendi la squadra in mano, insegna a questi ragazzi alla fine dell'anno qualcosa che tu lo sai far bene, spendiamo poco, ragioniamo con calma e poi andiamo avanti. Si è scelta un'altra strada, spero che il Manso prepari la squadra a Mourinho. A Mourinho, al ritorno di Mo fra un paio d'anni. Mancini gli detto, sì, ma questo credo sia il sogno proibito di tutti gli interisti. Pardo e Sorrentino. Prima Pardo. Sì, ma no, insomma, io penso che Mourinho è una molti interisti sono rimasti vedove inconsolabili di Mourinho, e questo è il sogno proibito, no? E fino a quando, e Mancini, a questo punto di vista, ha un potere terapeutico, perché è il primo allenatore, secondo me, che amano veramente, del quale si fidano veramente, che può in qualche modo appartenere a quella storia di successi alla quale sono legati, quindi può essere veramente il primo allenatore al quale dare una possibilità in maniera vera, senza storcere la bocca, no? come è successo per esempio per Benitez, che pure era uno che aveva vinto parecchio in carriera. Quindi da questo punto di vista Mancini, e lo vediamo perché Mancini, nonostante i risultati ad oggi siano abbastanza negativi, ancora viene accompagnato da un sostanziale ottimismo. E quindi però è chiaro che di Mourinho ce n'è uno, insomma, ecco, Mancini è credo subito dietro, e come si diceva prima, anche Mancini si è preso un rischio sicuramente nell'andare a allenare una squadra con degli evidenti limiti strutturali, al di là delle garanzie che certamente ha avuto e che ci stiamo rendendo conto comunque Toglie gli ha concesso, perché sta facendo un mercato come se il surplus finanziario non esistesse. Sì, poi leggo che il bond da 280 milioni in un mese arrivano i soldi, poi un socio per Toir, un articolo che compare oggi sulla Gazzetta, approfondiremo. Andrea Sorrentino. Sì, il progetto dell'Inter con Mancini è quello di rilanciare tecnicamente la squadra, magari non quest'anno con l'arrivo in Champions League, perché ribadisco, l'Inter quando ha parlato con l'UEFA, il famoso incontro di novembre a Nyon, non ha messo in preventivo per questa stagione l'ingresso in Champions, quindi non fa parte dei preventivi economici, loro non contano sul famoso gruzzolo da 40, 50 o 60 milioni che siano della Champions del prossimo anno, ma hanno un piano di rientro che appunto passerà attraverso questa emissione di bond e ovviamente, non essendoci la Champions a maggio, attraverso la cessione di alcuni giocatori. Contestualmente a quella cessione a cui loro pensano, e parliamo di Icardi sicuramente, probabilmente anche di Handanovic, chissà, di Kovacic, però si stanno portando avanti adesso costruendo la squadra per la prossima estate, sì. Anche perché al tempo stesso temono pure che tra le sanzioni dell'UEFA per il sostegno finanziario non ci sia soltanto una questione economica, ma ci possa essere un blocco del mercato, esatto, magari per la prossima stagione. Ragazzi, grazie, devo chiudere. Sentiamo. Ciao Andrea Sorrentino, Pierluigi, a domani. A domani, naturalmente. Sava Sandir, Fabio Cantadori in regia, Giorgio De Luca, il nostro autore, Daniele Buonavici in redazione. Ciao ragazzi. ci puoi gioco a Genova. E l'arbitro dice: guarda che lo devi dire a loro.